È morta ieri sera in ospedale a Matera la scrittrice ebrea Elisa Springer, una delle ultime protagoniste della Shoah, sopravvissuta ad Auschwitz, Bergen-Belsen e Terezin. Elisa Springer era nata a Vienna e viveva a Manduria, in provincia di Taranto, dove aveva trascorso buona parte della sua vita perché dopo la liberazione aveva sposato un salentino dal quale aveva avuto un figlio. Dopo aver dovuto tenere nascosta per decenni la sua vicenda di ebrea perseguitata, scrisse, grazie proprio al supporto del figlio medico, la sua autobiografia, Il silenzio dei vivi, pubblicato per I tipi di Marsilio nel 1997. Entrambi i genitori morti nei campi di sterminio, Elisa, ancora adolescente, è costretta a scappare dal suo paese dopo l'annessione dell'Austria alla Germania hitleriana. Dopo aver girato mezza Europa, Elisa arriva a Milano nel 1940, dove vive per 4 anni nella semiclandestinità, temendo i rastrellamenti dei nazifascisti. Viene arrestata nel 1944 grazie a una spiata e deportata prima ad Auschwitz, poi a Bergen-Belsen e poi a Terezin, 3 dei luoghi più obbrobbiosi per la memoria e la storia del genere umano nell'età contemporanea, amava dire. Gli ultimi anni della sua vita Elisa li ha trascorsi tra i ragazzi nelle scuole a raccontare e a testimoniare contro ogni forma di razzismo e di guerra. Elisa Springer aveva scoperto di essere ammalata di tumore da poco più di un anno, ne parlò anche in una delle sue ultime apparizioni pubbliche. Aveva 86 anni. Da Taranto per Amisnet, Ilario Galati.